Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, un nuovo appuntamento con la vostra trasmissione dedicata al nostro denaro, alla gestione al meglio dei nostri investimenti. Beh, certo che in questo periodo di temi da affrontare ne abbiamo avuti a bizzeffe. Ancora una volta dobbiamo raccontarvi di una giornata di borsa piuttosto negativa che replica un po' quello che è accaduto ieri. I mercati finanziari hanno già annullato l'exploit, il rally che erano riuscite a mettere a segno nella seduta di lunedì e martedì all'indomani del varo dei maxi piano di sostegno del sistema bancario che è stato appunto elaborato anche dai governi dell'Eurozona. Il mercato torna a scendere perché a questo punto si focalizza sulle prospettive della recessione economica che è inevitabile, arriverà, ma a quanto pare potrebbe avere dei connotati anche peggiori di quanto è stato previsto fino a questo momento. Questo è il tema su cui adesso gli operatori si focalizzano ed oggi dunque di nuovo borse giù con Parigi meno 3,53%, Francoforte meno 2,28%, Londra meno 3,54%, Milano è in calo del 3%. In realtà in avvio i ribassi erano ancora peggiori, tra il 5 e il 6%, adesso la situazione è leggermente migliorata. Abbiamo oggi una raffica di dati economici dagli Stati Uniti, tra l'altro ieri è stato proprio il dato sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti che ha improvvisamente fatto peggiorare la situazione nella seconda parte della seduta e oggi vedremo quali saranno le indicazioni che emergeranno. In Europa, dicevamo, il calo c'è ovunque, a Piazza Affari, che fino a poco fa non aveva addirittura nessun titolo positivo, adesso la lista si allunga. Abbiamo un balzo di Buzzi più 4,25, Fondiaria più 2,12, Banco Popolare più 1,81, Snam più 1,41, Bulgari più 1,18, mentre sono in forte difficoltà di nuovo i titoli del settore bancario: Intesa meno 7,5, Prismian meno 7, Banca Popolare di Milano meno 7, Fastweb meno 5,71. Scendono anche i titoli petroliferi, perché, e questa è una buona notizia, il petrolio sta scendendo. Addirittura il Brent a Londra è scivolato a $68 al barile e sta scendendo ancora l'Euribor a 3 mesi, oggi ha toccato il 5,09%, quindi insomma cerchiamo anche di intravedere qualche lumicino di buona notizia in queste giornate pesantissime. La crisi generale, lo sapete, sta spaventando un po' tutti, è naturale perché è una crisi che ha una natura diversa da quelle che in passato hanno attraversato le principali economie mondiali. Le preoccupazioni ci coinvolgono in qualità di consumatori, di risparmiatori, di investitori, ma anche in qualità di sottoscrittori di strumenti di previdenza complementare, di fondi pensione. Cosa succede alla previdenza complementare in una fase difficile come quella attuale, come quella che stiamo attraversando? Quali sono le protezioni, le garanzie su cui possiamo fare affidamento per tutelare la nostra futura pensione? È un tema che oggi cercheremo di affrontare a 360 gradi, focalizzandoci soprattutto su quelle che sono le vostre preoccupazioni, per cui vi invito sin da ora a cominciare a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24 o a scriverci al 349 238 6666. Ci faranno il punto della situazione il professor Mauro Marè, presidente del MEFOP, Mercato Sviluppo Fondi Pensione, è la società del Ministero dell'Economia che si occupa di promuovere i fondi pensione in Italia, ma è anche docente di scienza delle finanze presso l'Università della Tuscia, e poi Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. La borsa ve l'ho raccontata, gli ospiti ve li ho anticipati, adesso sentiamo la nostra scheda e poi entriamo nel vivo della nostra trasmissione. La crisi è esplosa a 360 gradi. L'uragano che ha investito i mercati finanziari non ha risparmiato neppure i fondi pensione. Secondo la Covip, da inizio anno a fine agosto, i lavoratori che hanno deciso di conferire il proprio TFR nelle forme di previdenza complementare hanno subito in media una perdita del 3,4%. Ad accusare il calo maggiore sono stati i fondi aperti, che hanno registrato un meno 5,7%, mentre i fondi negoziali hanno perso il 2,5%. Dati tuttavia positivi se confrontati con i ribassi sui listini azionari, ben superiori al 40% da inizio 2008. E se i cali sono stati malgrado tutto contenuti, lo si deve soprattutto ai vincoli che regolano il settore. Già dal 1996, infatti, la legge impone per i fondi pensione una marcata diversificazione del portafoglio e rigidi criteri di investimento, mettendoli così al riparo da strumenti rischiosi come le obbligazioni strutturate. E anche l'esposizione a titoli Lehman Brothers, fa sapere la Covip, è limitata all'1% del patrimonio dei fondi. Ma non è tutto. Così come per i fondi pensione di categoria, quelli aperti affidano in custodia il denaro ad una banca depositaria. L'istituto si occupa di custodire il denaro e di vigilare affinché vengano rispettate le regole per i fondi pensione previste dalla legge e il mandato conferito dal fondo al gestore nelle attività di investimento sui mercati, non superare ad esempio il 30% delle quote in azioni. Inoltre, se è vero che l'effetto della crisi ha provocato un calo dei rendimenti medi dei fondi che hanno aderito ad una linea azionaria, contenendo comunque le perdite, d'altra parte i fondi iscritti a comparti obbligazionari rischiano di produrre una pensione inferiore agli obiettivi di un tale investimento, quello cioè di garantirsi in futuro una rendita adeguata. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Abbiamo già pronti diversi ascoltatori. Saluto Alberto da Pordenone e Simone da Roma, ma soprattutto saluto intanto Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni qui in studio a Milano con me. Benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. E grazie anche di essere con noi al professor Mauro Marè, presidente di Mercato Sviluppo Fondi Pensione MEFOP. Ben trovato, professor Marè. Buongiorno a voi. Abbiamo fatto una marea di puntate lo scorso anno, sia con Marè che con Fabio Galli, per spiegare tutte le modalità di conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare, e certamente non avremmo mai voluto parlare anche di come i fondi pensione, gli strumenti di previdenza integrativa, stanno subendo questi scossoni di borsa. Sono scossoni inevitabili, sono effetti che anche i fondi pensione naturalmente inevitabilmente subiscono, ma prima di tutto quello che va detto e va precisato, tra l'altro ci sarà un'inchiesta approfondita anche su questi punti su Plus 24 di sabato a cura di Marco Lo Conte, sono comunque effetti attenuati, come spiegavamo nella nostra scheda. Professor Marè, allora possiamo dare subito così un messaggio confortante ai nostri ascoltatori che già ci stanno indicando: sì, vabbè, ma il mio fondo pensione sta scendendo, però i cali sono comunque molto più contenuti rispetto a quello che si sta verificando sui mercati. Sì, io direi che va inquadrata la prospettiva in un orizzonte più generale, cioè innanzitutto chiedersi se c'erano delle alternative. Si poteva, per accumulare per la previdenza, investire altrove o ad esempio fare affidamento solo sul settore pubblico, cioè sul primo pilastro? La risposta ovviamente è no. Quale sarà il tasso di rendimento del settore pubblico? È dato dal tasso di crescita del PIL o dei salari. Quale sarà una prevedibile crescita? 0,5, 1% se sarà tanto. Allora vuol dire che un sistema previdenziale pubblico rende l'1%, lo 0,5% nel medio-lungo periodo. Quindi non c'è un'alternativa che mettere i soldi in un fondo pensione. Tornando ai fondi pensione, questa storia delle perdite, sì, indubbiamente è spiacevole. È ovvio che quando si vede la borsa che va giù del 20-30% o che i rendimenti dei fondi sono negativi, i risparmiatori si preoccupano. Ma io vorrei ricordare alcuni elementi. Primo, uno si dimentica negli anni passati gli stessi dati della Covid che lei che citava il servizio. Uno dovrebbe rivedere i dati per esempio del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, cioè che mediamente sono intorno al 6-7% positivo. Quindi è chiaro che in un orizzonte di 15-20 anni, se io ho due crisi finanziarie con una riduzione del 10-20%, sono abbastanza preoccupato e perdo nel rendimento. Ma se uno fa un semplice calcolo e ipotizza di investire 1.000 euro e in questi 1.000 euro ha un tasso di rendimento positivo del 4-5% e due crisi finanziarie del meno 15, meno 20 per l'anno, per un anno, una crisi finanziaria che dura un anno, vede che ha comunque compensato ampiamente, sì, certo. Finisco e aggiungo che non si deve dimenticare altri aspetti fondamentali: i vantaggi fiscali, la detassazione sostanzialmente che si realizza negli accantonamenti ma anche nelle prestazioni e nei rendimenti dei fondi pensione, e infine il contributo del datore di lavoro che si beneficia quando si aderisce ad un fondo pensione. Perché? Perché questi due elementi aumentano di molto i rendimenti dell'accumulazione pensionistica. Quindi, tornando alla crisi dei mercati finanziari, ovviamente è una cosa negativa che preoccupa, benissimo. Però intanto quella dei mercati non è quella dei fondi pensione, come molto correttamente avete detto voi, cioè il fondo pensione invest ha una elevata diversificazione, ha una componente azionaria più o meno contenuta, e quindi questo ha fatto sì che in sostanza i tassi di il rendimento negativo finora è intorno al meno 2-3%, non meno 20 o meno 30. No, beh, sì, diciamo che mi spiegava Marco Lo Conte, che oggi non è potuto essere con noi e che presenterà appunto questa indagine sull'andamento dei rendimenti dei primi 9 mesi di quest'anno, che comunque ci sono delle linee di investimento di alcuni fondi che arrivano a perdere anche il 10-13%. Va precisato che sono comunque le linee più aggressive, quindi quelle che sono, per esplicita scelta anche del lavoratore che l'ha sottoscritta, le linee più esposte nel mercato mercato azionario. Ovviamente quelle invece più prudenziali hanno dei cali dei rendimenti assolutamente molto più contenuti. Prima di far intervenire Fabio Galli, sentirei una domanda che mi aiuta ad introdurre una domanda per lui. Volevo sentire Angelo da Milano, in realtà forse non è esattamente una domanda corretta per Galli, però lo sentiamo lo stesso. Angelo, benvenuto. Sì, benvenuto, grazie a voi, grazie di esistere innanzitutto. Sì. E la mia domanda era questa, cioè io già da ieri sera quando ascoltavo il programma di Salvadanaio, quando Barisoni ha accennato un'eventuale crisi nei fondi, sono un po' balzato un po', ho detto ma allora i nostri fondi... Ma è sicuro che abbia detto questo? Mi sembra molto strano. No, ha detto lui più che altro, ha detto spero che non, i nostri fondi pensione non ne risentano di queste cose qua, se no veramente siamo... Sì, ha fatto una battuta sul finale, battuta, sì, ho capito. Sì. E quindi allora io quello che volevo dire, io... partecipo al mio fondo Priamo, settore trasporti, sì. ho optato per un investimento bilanciato e la mia domanda era, c'è la possibilità che i fondi siano innanzitutto coperti da garanzie o in eventuali perdite? Sì. Oppure quello che pensavo io, se non è addirittura una buona opportunità per noi in questi casi, visto che compriamo per ogni mese, compriamo quote di fondi, per noi un'opportunità di comprare a prezzi più scontati. Ha visto, quindi... Angelo? Beh, allora ci è arrivato da solo. Bisogna anche guardare questa faccia della medaglia, che tra tutte quelle, diciamo, positive nella gestione delle forme di previdenza complementare, con il professor Marino non avevamo sottolineato, ma sono sicura che questo è un aspetto che interessa Fabio Galli, visto che la sua gestione in particolar modo è, come dire, la società che deve in qualche maniera invece osservare un po' più da vicino non solo la gestione dei fondi investimento in senso generale, ma soprattutto in questa fase, nelle frangenti di cui parliamo questa mattina, i fondi aperti. Angelo sottolineava il suo caso, ha un Priamo, un fondo di categoria chiuso, però insomma le considerazioni possono valere anche per quelli aperti. Intanto un fondo pensione non può fallire, Galli. No, assolutamente no. In questi momenti in cui abbiamo ricevuto notizie così forti sul mondo delle banche, delle assicurazioni, forse perdiamo un po' di vista l'idea di che cos'è un fondo. Un fondo sono nostri soldi, cioè i soldi rimangono, i nostri risparmi rimangono i nostri esattamente nelle nostre mani. Quando noi mettiamo dei soldi su un conto corrente, la banca usa i nostri risparmi per fare qualcosa d'altro che non conosciamo. Nella maggior parte dei casi fa dei buoni investimenti, quindi sarà in grado di pagarci indietro i soldi che sono sul conto corrente. Quindi proteggere quanto abbiamo versato. In casi eccezionali come quelli che stiamo vivendo in queste settimane, in questi mesi, ci sono banche che hanno fatto investimenti sbagliati e hanno dei problemi, possono avere dei problemi se non interviene lo Stato. Nel caso dei fondi è un mondo diverso, i nostri risparmi non sono usati per fare qualcosa che noi non conosciamo. Quando noi mettiamo i nostri soldi su un fondo obbligazionario, è come se noi comprassimo quelle obbligazioni. Ne compriamo tante, diverse, per ogni emittente di ogni obbligazione un pezzo piccolo. Non abbiamo la preoccupazione, l'idea del fallimento non appartiene al mondo dei fondi. Non può fallire qualcuno e quindi il fondo non ci ripaga. Dovrebbe fallire l'intero mondo, ma allora in quel caso, esatto, come dire, è una visione apocalittica. Al limite, banalmente, può fallire Lehman Brothers. Abbiamo scoperto che in qualche fondo c'era una marginalissima esposizione. C'era lo 0,01%. Esatto. Però quindi... ecco, questa storia è stata compensata ampiamente da tutti gli altri prodotti che erano in questo portafoglio. Quindi questa idea del fallimento del fondo possiamo tranquillamente sgombrarla dal campo. La seconda questione è, qualcuno può scappare con i nostri soldi? Cioè noi abbiamo dato i soldi e la vostra scheda diceva chiaramente no, perché i soldi sono detenuti separatamente da tutti gli altri, da tutte le altre come dire, masse di denaro che sono depositate in una banca, c'è una banca depositaria che fa quello. I nostri soldi, quindi noi non abbiamo il problema del fallimento del fondo. Abbiamo semplicemente l'idea della scelta come abbiamo investito questi soldi. Li abbiamo messi forse in un mercato azionario, forse in un mercato obbligazionario, forse in una linea bilanciata, e allora dobbiamo chiederci se effettivamente questa scelta l'abbiamo fatta bene con cognizione di causa. L'unica cosa di cui noi per investire bene abbiamo bisogno di tempo. I fondi pensione funzionano bene perché sono costruiti bene e perché portano, accompagnano l'investimento per molti anni. Quindi tutti noi, giustamente, a 30, 40, 50 anni, abbiamo ancora 5, 10, 15, 30 anni davanti a noi. Questo fa sì che il funzionamento del fondo, come ricordava il nostro radioascoltatore, in realtà può vivere questi momenti di crisi come opportunità di investimento a livelli molto bassi del mercato. Noi siamo in qualche modo impauriti dalle notizie, dalla situazione di tensione, dal fatto che se è calata del 40% la borsa ci chiediamo perché non potrà calare ancora di un 20 o un altro 30. Non è questa la vera domanda è se io oggi ho 40 anni e vado in pensione a 65, ho 25 anni davanti a me, razionalmente questo mercato in 25 anni mi darà un rendimento che, come ricordava il professor Marè, è quasi certamente superiore a quello dell'andamento della nostra economia, che è un'economia con le gomme sgonfie, possiamo dirlo? La risposta è sì, quindi giustamente il modo in cui dobbiamo, paradossalmente vorrei dire, quando facciamo un investimento razionale, diligente come quello che si fa attraverso i fondi pensione mese per mese, questa è paradossalmente quasi un'opportunità di entrare in parte sui mercati azionari a dei livelli buoni. Vorrei sentire su questi aspetti anche il professor Marè, ma ci aggancio anche la domanda di Simone da Roma, che credo voglia esprimerci lo stesso tenore delle preoccupazioni degli altri ascoltatori. Simone, benvenuto. Tra l'altro poi vorrei chiederle Galli se ci spiega anche per esempio un fondo bilanciato che tipo di composizione ha. Simone. Buongiorno, buongiorno a lei. Saluti a tutti, e la vostra trasmissione è fantastica, la seguo tutti i giorni. Grazie Simone. Io tramite la legge che fecero l'anno scorso in relazione a TFR ho aderito al fondo Fonchim, che è quello della mia categoria professionale, che appartengo ai chimici. Sì. Io preoccupato insomma della situazione Lehman Brothers, ho chiesto a tutti, sono anche socio di altro consumo, ho chiesto anche a loro, non sono riuscito ad avere informazioni fino a che non ho accesso al sito. Lì in quel caso mi hanno detto, come giustamente ha detto il professore poco fa, praticamente sono talmente diversificati gli investimenti che non esiste un rischio concreto, però io ho visto l'andamento che è circa del 13% in calo. Ora mi domandavo quale sarà la prospettiva. Io Simone, siccome no, le volevo chiedere, lei ha aderito lo scorso anno, però mi sembra piuttosto giovane, quanti anni ha? 30 anni. Quindi insomma ancora tutta la vita diversamente davanti a lei. E volevo chiederle anche se ha così chiaro il tipo di linea di investimento alla quale ha aderito scegliendo Fonchim, perché anche i fondi negoziali insomma hanno tutti quanti dei pluricomparti, insomma sono pluricomparto. Sì, ho scelto il comparto più aggressivo proprio perché ho tanti anni al limite per poter ammortizzare eventuali perdite. E quindi anche loro poi. Quindi insomma si rende conto che rispetto al calo della borsa del 50% lei in che misura ha attutito la perdita? Sì sì, no, ma in parte la mia domanda non ha molto senso perché avete No, ci mancherebbe. Ha assolutamente senso Simone, però insomma queste sono le sue preoccupazioni come sono le preoccupazioni di tanti altri. Professor Marè, e allora insomma facciamoci un po' portavoci di un messaggio rassicurante, anche se mi rendo conto poi che sembra anche ridicolo in una fase come questa, però almeno ci proviamo. Dunque, paradossalmente è stato già detto, in una fase di discesa dei mercati azionari uno dovrebbe avere il coraggio di entrare, anzi di aumentare l'avversamento al fondo pensione. Perché teoricamente il gestore della linea di investimento di Simone dovrebbe farlo in questa fase, sì, perché lo fa automaticamente. Un andamento anticiclico è quello che serve. È chiaro che se io scappo quando va male e dentro quanto va bene, è esattamente quello che non devo fare, perché realizzo le perdite dentro quanto i prezzi sono elevati. Dovrei invece essere coraggioso ed entrare adesso, ma capisco che questo può essere troppo per dire ai risparmiatori o ai lavoratori. Quello che diceva Simone, secondo me, è molto giusto, ma l'ha capito da solo, e cioè in una fase non possiamo fare niente contro una caduta dei mercati azionari, non si può fare niente, nel senso che non è colpa di nessuno, nessuno ha la palla di vetro, quindi bisogna sopportarla. Il problema è capire che in un orizzonte di tempo di 20-30 anni, lo diceva già prima Galli, il rendimento del settore pubblico è molto modesto, e allora i rendimenti dei mercati azionari saranno sicuramente, con fasi negative, anche molto negative, più che positivi, e potranno darci dei rendimenti molto utili. Dicevo prima l'esempio delle 1000 euro nel corso del 30 anni, proprio per questo, perché se l'ascoltatore Simone fa una simulazione con dei tassi medi di rendimento 3-5%, possiamo prendere anche i bassi, e ipotizza 2-3 fenomeni di caduta molto profonda dei mercati azionari, vede che comunque ha un rendimento molto positivo. È certo che adesso quando va male uno ha paura, ha timore, però non ci sono alternative. Lui ha scelto, poi ha detto, un profilo molto aggressivo essendo giovane, è quello giusto. Il problema si tratta via via, quando uno invecchia, di ridurlo, e all'avvicinarsi del pensionamento di passare verso il comparto più obbligazionario. Questo è quello che noi tutti possiamo dirgli, perché questo è quello che è la saggezza e la teoria della finanza ci suggerisce. appunto. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, stiamo parlando questa mattina di fondi pensione per capire che tipo di impatto stanno registrando i contenitori della nostra pensione del futuro rispetto a questa crisi. E allora, ovviamente, stanno arrivando molte domande interessanti e intelligenti da parte dei nostri ascoltatori. Qualche provocazione naturalmente non manca, ma siamo proprio convinti, ci dice Stefano da Vimercate, che sia tutto rose e fiori come l'ha dipinto la scheda. Non mi sembra che abbiamo fatto un quadro di questo tipo, Stefano. Stiamo ammettendo molto chiaramente come ovviamente anche nei rendimenti dei fondi pensioni ci sia stato l'effetto di calo dei mercati dirompente e allarmante che sta registrandosi dall'inizio dell'anno, però a fronte di un meno 50% registrato dalle borse, anche le linee azionarie dei fondi pensione e delle linee appunto più aggressive, il calo di circa il 12-13% per tutte le motivazioni che abbiamo spiegato nella prima parte della nostra trasmissione. Un altro ascoltatore, che era invece anche abbastanza divertente, ci racconta che ha tolto tutto dalla banca perché dice che dobbiamo lasciare in mutando, ha tolto anche il fondo pensione. Vabbè, se lei ha trovato delle alternative dove mettere il suo denaro, magari ce lo racconti, così ce lo mettiamo anche noi. E c'era invece un altro commento più divertente che faceva sorridere anche Fabio Gallici: perché i fondi hanno spesso nomi epici, forse perché promettono rendimenti mitici, Priamo, Teseo, Ettore, Elmo, Lucente, Galli. Nessuno promette dei rendimenti stratosferici né mitici, cerchiamo in qualche maniera di salvaguardare appunto la nostra pensione, i nostri versamenti, i nostri accantonamenti periodici per poi ritrovarceli insomma nel futuro. No, ma i fondi sono molto poco mitici, in realtà fanno delle cose semplici ma che funzionano. Ad esempio, funzionano in maniera automatica. Io oggi, se dovessi prendere la decisione di mettere un pezzo dei miei risparmi in azioni, in queste giornate, emotivamente è molto difficile, cioè faccio molta fatica a prendere questa decisione. Insomma, il dubbio di sbagliare, che potrà calare ancora, che in realtà non tutto è scontato, c'è. Io ho un fondo pensione, non vi dirò quale, ma insomma ho un fondo pensione, e questo fondo pensione per me a fine settembre, e lo farà ancora a fine ottobre, questi soldi, ho una linea azionaria, ho 41 anni, questi soldi entreranno. È una decisione automatica che io non devo rinnovare ogni mese pensando, in un momento così difficile, se ho il coraggio di farlo, se è bene farlo in questo momento. È una decisione che ho preso anni fa, che è adatta per la mia età, per il mio reddito, per le mie prospettive future. E questa decisione che parte in automatico mi aiuta, perché mi toglie da quello stato di difficoltà e angoscia che è l'investimento fatto in condizioni di stress. Mm-hmm. Tutti sembrano essere molto bravi ad investire, soprattutto in azioni, quando il mercato in realtà è strafatto, è già arrivato ai massimi. Voi ricorderete tutti che alla fine dell'anno 2000 c'erano soltanto trader in Italia, gente che si licenziava perché guadagnava il 5% in un giorno con le OPA, con le cose. Ecco, il fondo pensione non c'entra nulla con quel mondo lì. È un mondo in cui noi dobbiamo semplicemente decidere, in base al nostro reddito, al nostro tipo di lavoro, alla nostra età, se vogliamo stare su una linea obbligazionaria, una linea bilanciata, una linea azionaria. Ed è molto giusto chi ha detto: ho 31 anni, sono su una linea azionaria. E a quel punto il fatto che oggi in automatico succedano delle cose va a nostro vantaggio, perché noi emotivamente non siamo nelle condizioni di prendere bene quelle decisioni in continuo. Le possiamo fare soltanto a bocce ferme quando non siamo in queste condizioni di incertezza e di difficoltà. E quindi quindi qual è il suggerimento in questo momento? Di non stare ad ossessionarsi a guardare il valore delle quote, ma magari adesso, quando il mercato si tranquillizza, fare un punto della situazione in quel momento? A parte il fatto che è stato detto che insomma rispetto all'andamento dei mercati, anche i fondi che hanno esposizione azionaria hanno perso molto meno di quanto abbiano perso i mercati. Ma il punto è che è vero, è possibile che domani i mercati facciano ancora male, facciano peggio, ma il problema è che se io investo di mese in mese una certa cifra, necessariamente da qui a 5 anni avrò ottenuto dei rendimenti che sono buoni, perché i mercati hanno sempre avuto questa ciclicità. Complessivamente, quindi, io semplicemente sono in un sistema che funziona. Dopodiché è bene, al di là del nome del fondo, che qualcuno mi spieghi bene quel fondo in particolare, come è gestito, perché ha un certo andamento, perché sta facendo meglio o peggio del benchmark. Ma complessivamente il sistema, la scelta di cui noi dobbiamo pensare, è completamente slegata a quello che sta succedendo nell'ultimo mese, negli ultimi 5 mesi. In alcuni casi, consentimelo Deborah, in alcuni casi anche fare queste analisi che appaiono molto spesso sulla stampa, sull'andamento dei fondi negli ultimi 3 mesi. Se io stessi facendo il trader, se io stessi comprando e vendendo per guadagnare, ovviamente ha senso. successo. Nel mondo dei fondi pensione, fare analisi su cosa è successo negli ultimi sei mesi, francamente, è vero. Il problema è che forse queste analisi nel nostro paese hanno una certa validità, perché noi abbiamo fatto questa scelta importante solo lo scorso anno. Siamo stati sfortunati all'idea che abbiamo lanciato questo sistema, anche questo processo di travaso verso i fondi pensione, forse un po' tardi, no? Sono sicura che sono temi che appassionano molto anche il professor Marè, MEFOP, ma adesso lo sentiamo. Abbiamo però un paio di ascoltatori in linea. Allora, Daniele da Padova credo che si sposi molto bene con le ultime riflessioni fatte da Fabio Galli. Daniele, benvenuto. 800 24 00 24 se volete continuare a prenotare i vostri interventi. Daniele, benvenuto. Sì, buongiorno. Io telefonavo perché ho sottoscritto l'anno scorso con la mia azienda Fondo Solidarietà Veneto e ho messo una linea reddito che diciamo è un bilanciato che però c'è un massimo di 30% in azioni. E la settimana scorsa, approfittando dei ribassi, ho switchato sulla linea dinamica che arriva al 50% di azionario. Io ho 45 anni, mi mancano 10-11 anni ad andare in pensione. Volevo solo Daniele, da quanto lavora? Quando aveva 5 anni praticamente? No, lavoro da quando avevo 14 anni. Certo. Quindi insomma, lei insomma, per i restanti 10 anni diversamente nel suo fondo pensione ha ben pensato di incrementare la parte aggressiva. Quindi la domanda è? È da un anno in pratica, un anno e mezzo che abbiamo sottoscritto il fondo in azienda. La domanda è, secondo voi ho fatto una scelta giusta oppure no? Allora Daniele, la manteniamo in sospeso, sento anche Flavio da Roma perché è da un po' che aspetta. Flavio, benvenuto anche a lei. Buongiorno, un saluto a lei e a tutti i suoi ospiti. Io sto chiamando perché volevo fare delle considerazioni in parte già approfondite con i suoi ospiti. Sono un promotore finanziario che in questi ultimi anni si è specializzato un po' nel settore previdenziale. Credo che tutto quello che si stia accadendo, le domande che arrivano, sostanzialmente avvengono perché siamo purtroppo in un momento di poca cultura del risparmio, cioè nel senso che il cliente o comunque coloro che vanno ad aderire ad un fondo pensione si preoccupano poco di capire cosa stanno facendo e qual è il suo funzionamento, anche per responsabilità di coloro che operano nel settore. Il cliente che dice ho tolto il fondo pensione probabilmente non sa che non ha un fondo pensione, credo, perché di sua natura il fondo pensione è un prodotto che non puoi disinvestire. Quindi credo che tutto questo sia legato sostanzialmente a una poca cultura del risparmio, perché l'arco temporale del fondo pensione è di sua natura un qualcosa che protegge proprio da queste problematiche legate alle svalutazioni dei mercati. Certo Flavio, ma probabilmente come dicevamo anche con Fabio Galli, la questione vera è che noi con la previdenza complementare abbiamo avuto questo impatto molto aggressivo lo scorso anno quando abbiamo dovuto fare la scelta del conferimento del TFR agli strumenti di previdenza complementare. Abbiamo dovuto, c'è stata data l'opportunità di farlo, poi non eravamo obbligati a fare un bel niente, no? Non crede? Comunque creare delle strutture di collocamento più professionali che non mirate solo al collocamento, quindi credo che lì sostanzialmente sia la chiave. L'ultima cosa, considerazione che volevo fare, è che credo che oggi chi è legato a preoccupazioni, chi si debba preoccupare dell'andamento nei fondi pensione, chi magari ha sottoscritto per durate di 4-5 anni per avere magari il contributo del datore di lavoro e magari è partito con una linea spinta, allora lì sicuramente deve vivere delle problematiche o pensare a fare degli certo interventi. Anche insomma lì l'età come chiave d'accesso fondamentale allo strumento e alla scelta dello strumento. Flavio, la ringrazio. Ritorniamo sui fondi pensione a Salvadanaio, professor Mauro Marè, presidente del MEFOP, mercato sviluppo fondi pensione. Molte considerazioni interessanti dei nostri ascoltatori, chi dice la sua sulla scarsa anche cultura finanziaria, ancora, ma insomma questo è un tema sul quale abbiamo speso molte parole anche in passato, quindi c'è proprio un approccio sbagliato, dice Flavio da Roma, all'argomento. Chi invece come Daniele dal Veneto chiedeva insomma se aveva fatto bene ad aver modificato la sua linea di investimento. Partiamo da Flavio, professor Marè. Secondo me sì, secondo me ha fatto bene perché e lo leggo alla seconda cosa che diceva, credo, il primo era Daniele, il secondo Flavio, se ricordo bene, sì. A quello che diceva Flavio, cioè che diceva anche prima Galli, bisognerebbe, c'è un problema di informazione finanziaria, e cioè andrebbe spiegato ancora meglio qual è e che cosa significa l'investimento previdenziale, che non è un investimento di breve termine nei mercati azionari, ma un investimento di lungo termine, fatto da operatori specializzati che hanno la competenza per farla, che hanno quindi costi relativamente contenuti. Quindi c'è poco da fare, la migliore soluzione è questa, sempre pensando, scusi che lo ribadisco, perché non è chiaro, le alternative, se uno deve fare un investimento di tipo previdenziale, e cioè cercare una soluzione per aumentare la riduzione nei rendimenti che darà il settore pubblico, qual è la cosa migliore? Investire nei mercati finanziari. C'è un modo per evitare le cadute nel corso del tempo, nell'anno che va male? No. E allora deve sapere che nell'anno che qui va male deve stare tranquillo, anzi forse aumentare la parte di risparmio che mette in quel profilo, chiaramente modificare, ecco, all'ascoltatore che ha, mancano 3-4 anni e investe molto nei mercati azionari, forse direi, lo diceva prima Galli, attenzione, all'avvicinarsi della scadenza uno deve decumulare dall'investimento azionario e andare più nella linea, diciamo, se non bilanciata, addirittura obbligazionaria. Ma le alternative non ci sono, ripeto, tutta questa storia è stata messa in piedi perché ci si è resi conto che il sistema pubblico, il sistema pensionistico pubblico, per i motivi demografici, per i motivi occupazionali che qui non abbiamo tempo di discutere, renderà sempre di meno, renderà poco. E allora tutti siamo entrati, l'idea della previdenza complementare è fare in modo di diversificare il rischio economico, demografico e finanziario e soprattutto offrire uno strumento che può essere in grado di rendere di più. L'anno che va male, uno sopporta il rischio perché va male, ma deve ricordarsi anche gli anni che vanno bene. Cioè è chiaro che adesso vediamo quanto hanno reso, oppure ad agosto abbiamo citato meno 10 o meno 5, meno 2, 5, 5, 7, ma ripeto, i rendimenti dei fondi aperti, per esempio, che rendono di più, anche se costano di più, l'11,5%, ma l'hanno fatto per diversi anni, quindi uno non può vedere solamente un pezzetto. Qual è la cosa migliore da fare all'ascoltatore? Con una calcolatrice si mette lì e fa un calcolo semplicissimo, basta poco, anche senza interesse composto, lo può fare con interesse composto, senza interesse composto, fa una somma semplice per 20 anni dove applica un tasso di interesse del 4-5% e poi vede che succede se ogni tanto, ogni 5 anni, ogni 7 anni, va giù del 10%. Facesse questo calcolo e da solo si convince della convenienza ad investire nei fondi pensione. Questo è il modo migliore, secondo me, per farglielo capire, perché altrimenti, quindi ritorniamo, Deborah, all'origine, cioè serve una ripartenza della campagna informativa, probabilmente del processo di adesione, dopo che si è calmata la tempesta dei mercati finanziari, ovviamente, perché in questa situazione andare a parlare di adesione o di pensione non credo che... Infatti. No, tra l'altro ci sono anche molti ascoltatori che chiedono, ma insomma, io ancora non ho fatto questa scelta, conviene farla adesso o aspettare? In realtà, se l'ottica temporale è lunga, non esiste un momento migliore piuttosto che un altro per fare questa scelta, ogni momento è buono, esattamente come succede poi per il fondo di investimento se si ha un'ottica e un orizzonte di lungo periodo, Galli. No, è certamente vero, è certamente vero che è molto difficile, però possiamo correre qualche rischio dicendogli che sì, cioè proprio adesso che i mercati finanziari hanno avuto questa grossa correzione è un buon momento per partire, paradossalmente. È il solito paradosso, cioè bisogna andare, si parla di investimento anticiclico, cioè avere il coraggio di andare contro i mercati richiede emotivamente una grossa forza. È chiaro che quando tutto sembra andare bene è una scelta più facile, quando tutto sembra andare per il peggio è una scelta molto più difficile, però sì, paradossalmente, soprattutto se si è relativamente giovani, quindi si vuole investire in una linea azionaria, benissimo, è lo stesso motivo per cui il tuo radioascoltatore che ha detto sono passato a una linea dinamica proprio adesso e ho ancora 10 anni, in realtà 10 anni diversamente, poi è una persona molto giovane, si renderà conto che rimanere anche più a lungo nel fondo pensione è uno strumento efficiente per tenere ma in ogni caso, insomma, potrebbe poi mantenere questa linea aggressiva per qualche anno, visto che poi c'è la possibilità di switchare, quindi di fare il cambiamento, certo, di linea di investimento, costa qualcosa switch non costano, è anche lì una decisione da prendere appunto in base alla proprietà, ci si rende conto che un po' di anni ci si sta avvicinando al momento della pensione, man mano si riduce il rischio. No, non è una questione di costo, è una questione di scelta. Tra l'altro alcuni fondi offrono anche la possibilità di fare questa scelta secondo certe modalità che consentono di smussare molto il passaggio. Si arriverà anche a sistemi automatici. Io questo credo molto, che il fondo si dovrà far carico quasi di prenderci per mano, cioè ci sarà, se non vogliamo scegliere noi, sarà il fondo che ci dirà, beh, in questo momento, a quest'età, stai pure su una linea azionaria, e poi man mano sarà il fondo stesso che lentamente, automaticamente sposterà questi soldi su linee, per esempio, bilanciate. Perché in un certo senso a noi non spetta a noi queste procedure, queste modalità di investimento sono qualcosa di cui noi giustamente è meglio che non ce ne facciamo carico. Noi ci siamo già fatti carico di una scelta importante che non spettava i nostri genitori, cioè di capire che dovevamo avere, mettere qualche soldo in più anche nostro. Come veniva ricordato dal professor Marè, ci dà una mano il datore di lavoro, ci dà una mano lo Stato col sistema fiscale. Col versamento fiscale, in sì. alcuni casi ci sono gli enti locali che contribuiscono. Come nel caso appunto dell'ascoltatore che ha fatto confluire quando, il suo quando, IFR quando, nel quando fondo si calcola sì. il fondo negoziale è calato del 10%, ma se si fanno i calcoli con tutte queste forme contributive aggiuntive e il vantaggio fiscale, comunque anche in momenti di questo tipo il fondo in realtà sta funzionando bene. Certo. E teniamo conto che l'opzione quella fantasmagorica di dire io mi dimentico dei mercati finanziari, beh, ma io oggi se tengo delle banconote nel materasso l'inflazione mi mangia il 3,5% all'anno. Infatti, insomma, fra un anno non avrà certamente lo stesso valore quel pacchetto, quel lingotto che vogliamo mettere sotto il materasso, perché adesso addirittura immagina anche la fuga dal conto corrente. L'ultima domanda, Antonio da Cuneo, però deve essere brevissimo perché stiamo chiudendo. Eccoci, a lei. Buongiorno. Quelli presenti in studio forse però sono un po' in conflitto di interessi, perché se ho ben capito fanno parte di chi vendono fondi. Comunque è un po' come i promotori. Non è esattamente così, Antonio, però prendiamo atto della sua perplessità. Ci faccia la domanda perché sto chiudendo. Ho seguito bene, quindi posso anche sbagliarmi. Però volevo mettere, cioè, proprio in questi giorni di cali di borsa, tra l'altro ho potuto sperimentare che tanti promotori poi in realtà sono solo dei venditori che vanno un po' in conflitto di interessi, quindi quando ti devono suggerire magari di alleggerire la parte azionaria non lo fanno. Prima sentivo del consiglio di switchare poi i fondi pensione al momento opportuno. Spero che il consiglio venga poi dato veramente al momento opportuno. Comunque, venendo alla domanda, più o meno comunque... Antonio, sto chiudendo, è rapido, devo sì, chiuderla. La domanda era se, cioè io mi mancano 20 anni, ho cominciato la pensione, mi mancano 20 anni, ho cominciato a versare a 14 anni, quindi sono lontano, potrei fare tranquillamente un fondo aperto, poi un'alta protezione al rischio. E... La domanda, Antonio, sono la saluto. La domanda è, cioè a 20 anni forse il rischio è poco, però ho una collega che è preoccupata, che essendo che lei gli mancano 3-4 anni alla pensione, forse... In tal caso non conviene passare a un fondo aperto, deve restare su dei fondi. Antonio, la devo salutare perché stiamo chiudendo. Professor Marè, allora, dipende intanto, diciamo, la scelta dall'età che si ha, no? Assolutamente. Assolutamente dipende dall'età. Guardi, paradossalmente uno dovrebbe dire, se mancano 3-4 anni, forse uno può stare tranquillamente in azienda col TFR e non entrare. Infatti, in realtà, questo anche per arrivare a dire ad Antonio che qua nessuno vuole vendere niente, neanche da questi microfoni, perché questa poi è una considerazione che mi fa sempre molto arrabbiare. Cerchiamo di capire quali sono anche le nostre esigenze. Se emotivamente non siamo pronti a tollerare tutta l'emotività e la volatilità che c'è sul mercato, abbiamo la facoltà di mantenere il TFR in azienda, punto e basta. Per cui purtroppo devo chiudere, ma insomma questa considerazione di Antonio mi ha fatto anche un po' innervosire. In ogni caso, grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a Fabio Galli e Mauro Marè. Noi torneremo naturalmente su questi temi al più presto. Intanto a tutti un saluto, a domani.